Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Dal piano Colao al vertice che si è tenuto per l'export in attesa degli stati generali dell'economia. Questo è il tema che tratteremo soprattutto nella seconda ora del programma. Perché? Perché oggi si è tenuto un vertice organizzato dal incontro, più che un vertice organizzato dal ministro agli esteri Di Maio, il patto per il Made in Italy, quindi una nuova strategia per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Il governo mette a disposizione risorse straordinarie pari a 1.400.000.000 l'export, sappiamo che fu il principale elemento di crescita dell'economia italiana in questi anni pre-Covid, praticamente non dico l'unico ma il principale, e il patto si reggerebbe su sei pilastri, a partire dalla comunicazione per un rebranding nazionale, che vuol dire riposizionamento del Made in Italy, del marchio Made in Italy a livello internazionale, e poi la formazione, l'informazione, l'e-commerce, il sistema fieristico, la promozione integrata e la finanza agevolata. All'incontro hanno partecipato sia la responsabile delle politiche agricole, il ministro Bellanova, il ministro dell'economia e finanze Gualtieri, quello alle infrastrutture e trasporti Di Micheli, Università e Ricerca Gaetano Manfredi, il ministro per i beni e le attività culturali e il turismo Dario Franceschini e il ministro Pisano, responsabile per l'innovazione tecnologica. Presenti anche alla firma i principali enti preposti all'internazionalizzazione del sistema produttivo, tra cui ICE, Gruppo CDP, SACE, Siemens, Invitalia e il commissario generale per l'Expo Dubai. Presenti anche 20 associazioni rappresentative del sistema imprenditoriale, tra cui anche Confindustria. Vedremo cosa è uscito, per carità. È un cantiere, come l'ha definito il ministro Di Maio, che prevede intanto una campagna di comunicazione. E poi deve mettere a disposizione strumenti a partire da figure come i Temporary Export Manager e i Digital Manager, per sostenere l'accesso delle imprese italiane ai mercati esteri. Gualtieri ha definito un patto, come un patto per l'export, un salto di qualità. E vabbè, questo per quello che riguarda quello che è emerso. Poi cerchiamo di capire se c'è anche qualcosa di più. Perché? Perché lo dico? Perché non vorrei che è solo un sospetto, non vorrei che tutti questi tavoli e questi avessero poi un respiro molto, non debole, ma molto labile, e mi riferisco anche agli stati generali dell'economia. Va benissimo fare gli stati generali dell'economia, basta poi tradurre in maniera molto operativa quello che emerge e avere una rappresentazione, una fotografia il più possibile dettagliata, anche perché oggi sono arrivate le indicazioni. I sei campi di intervento della Commissione Colao, ancora non abbiamo notizia della cosa, ho visto vari esponenti dell'opposizione chiedere che vengano resi noti pubblicamente le indicazioni di Colao. Non penso che vi sia nulla di male nel comunicare a tutti quali sono le indicazioni del comitato tecnico a cui ha lavorato Vittorio Colao. Cercheremo di parlarne, ripeto, non ci sono grandi notizie su questo, però insomma cercheremo di capire. Allora, il mio timore, no, non sto dicendo che i tavoli non vadano bene, ci mancherebbe, anzi, più opinioni ascolti meglio è, soprattutto se sono opinioni di persone che conoscono la materia. Quello che è la mia preoccupazione, mettiamo così, è che poi si arrivi a un punto di sintesi, di questi tavoli, degli stati generali dell'economia e quant'altro. E cioè che non resti solo una grande consultazione e poi così mezza sospesa nell'aria. Parleremo invece in apertura di altre vicende e mi riferisco da un lato a quello che è successo con Diasorin, anche perché questo poi ha a che fare con l'andamento poi del titolo in borsa, ma non solo per questo motivo. Che cosa è successo? Il TAR della Lombardia ha annullato l'accordo tra il Policlinico San Matteo di Pavia e la Diasorin sui test sierologici e quindi è stato accolto il ricorso dell'azienda concorrente Tecnogenetics, perché sostanzialmente il TAR ha anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti, perché la Fondazione San Matteo ha impegnato risorse pubbliche, materiali e immateriali, con modalità illegittime, sottraendole in parte alla loro destinazione indisponibile. Cosa era successo? Allora, a seguito della decisione del San Matteo, che aveva ritenuto a fine marzo i test sierologici della Diasorin più affidabili, la Regione Lombardia aveva stretto con la società un accordo di affidamento diretto, quindi senza passare per gara pubblica, per una fornitura da 500.000 pezzi del valore di 2 milioni. La decisione definitiva della Regione Lombardia dell'11 aprile, la Diasorin ha ottenuto la certificazione il 17 aprile e poi invece la centrale acquisti della Regione Lombardia è corso un po' ai ripari con una manifestazione di interesse a una gara vera e propria vinta pochi giorni fa da Roche, e secondo l'intenzione della Regione i due test, quello Diasorin e quello Roche, potevano convivere, diciamo, tra di loro. Invece il TAR non è di questa opinione. Il titolo va molto male in borsa, come era prevedibile, è già un po' di giorni che parlavamo di realizzi, insomma meno 4,40%, così vengo anche alla borsa, che invece complessivamente è leggermente positiva di uno 0,30%, Parigi meno 0,30%, Francoforte meno 0,20%, Londra meno 0,20%, Dow Jones più 1%, Milano più 0,30%, perché se è vero che Diasorin perde il 4,30% e stima Electronics il 4%, Nex il 3,5%, Ferragamo il 3%, Moncler il 2,90% e Atlantia il 2,60%, è anche vero che Biper Bank guadagna il 6,11%, Unicredit più 4,50%, Mediobanca più 3,30%, Telecom più 3%, Mediolanum più 2,80%, Azimut più 2,60%, il 2,5% lo guadagnano le Poste Italiane, UBI più 1,90% come A2A, Tenaris più 1,70% come Saipem e Intesa San Paolo. Chiudo con Banco, BPM, Eni e CNH e Fiat che guadagnano l'1,3%. Si conferma quindi Milano, ne abbiamo parlato dello scollamento tra previsioni dell'economia reale e borse, ne abbiamo parlato venerdì scorso. Milano comunque guadagna lo 0,30% a 20.250 punti. E questo è un altro elemento di cui appunto parleremo. L'ulteriore vicenda invece che c'entra con l'economia, perché è la partenza di una cosa molto attesa, l'app Immuni, e quindi già scaricata da più di 2 milioni di persone. E siccome anche qui ci sono molti dubbi sul funzionamento ed è importante, vedremo come funziona, soprattutto per, dico prepararsi alla fase 2, non ci voglio neanche pensare, ma insomma avere degli strumenti che permettano una tracciabilità, ci sono arrivate moltissime richieste anche da parte di aziende come si può scaricare. Vedremo di capire, perché non è come abbiamo letto o come qualcuno ha riferito, per cui l'app può tracciare chi ho incontrato e qualcuno può venire a saperlo. È molto diversa la cosa, e non quando ti segnala non ti segnala il nome e cognome della persona poi risultata positiva, ti dice semplicemente che tu sei venuto a contatto vicino, sotto i 2 metri, per più di 15 minuti, se non ricordo male, con una persona che poi è risultata positiva, ma in maniera anonima. Comunque ne parleremo, perché, ripeto, è un tema che sta riguardando anche le richieste di molte aziende che ci hanno scritto, hanno detto ma forse quello potrebbe servire per rendere ancora più sicuro l'ambiente lavorativo. Ne parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Allora, andiamo con le notizie internazionali, quelle di carattere generale. Riapre New York oggi, dopo 100 giorni esatti dalla fine dal primo caso di coronavirus. Entra ufficialmente nella fase 1, che assomiglia molto alla nostra fase 1, quindi 400.000 persone tornano oggi al lavoro nel mondo delle costruzioni, ma anche nelle vendite al dettaglio. Sono quattro le fasi, questa è la prima, che durerà almeno 2 settimane, e poi durerà, dipenderà tutto dal tasso di infezioni. New York in realtà è stata devastata anche dai saccheggi e dagli scontri di questi giorni, come abbiamo visto. Comunque, invece, per quello che riguarda la circolazione dentro l'Unione Europea, oggi la Commissione Europea ha detto di aver ricevuto la lettera del premier spagnolo Sanchez e del premier italiano Conte, e ha ricordato che ha già pubblicato le linee guida il 13 maggio per una riapertura coordinata delle frontiere, e non può, però non ha voluto commentare il contenuto della lettera. Ha detto la Commissione Europea di essere contraria a ogni forma di discriminazione. E invece oggi ha parlato in un'audizione al Parlamento europeo anche la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. Since the last monetary dialogue in early February, Europe has entered a crisis of unprecedented scale in peacetime. La Lagarde, che sentite, ha detto, insomma, dopo che l'Europa è entrata in una crisi di una portata senza, di una scala senza precedenti, una crisi di cui nessuno è colpevole, che colpisce tutti gli Stati membri, ecco perché parliamo di crisi simmetrica, di shock simmetrico, che richiede iniziative a livello internazionale. Ha definito il programma PIP, quello per l'acquisto di titoli di Stato, che lei ha implementato, che la BCE ha implementato, come il programma più adeguato, e poi ha anche parlato del Recovery Fund, che non dipende chiaramente dalla Banca Centrale Europea. Ha detto è decisivo, e la proposta della Commissione Europea per la revisione del budget pluriennale e quello che si chiama Next Generation EU sono decisivi e va adottato velocemente. E poi ha aggiunto anche che, insomma, ha confermato il piano degli acquisti della Banca Centrale Europea, e ha detto che perché il mercato unico funzioni come motore per la convergenza, le aziende europee devono competere in condizioni simili, e quindi la spesa europea dovrebbe puntare a ristabilire parità di condizioni e sostenere i più colpiti dalla crisi. Però dunque, la ripartizione delle risorse tra stati membri prevista dal Recovery Fund ha scarsa connessione diretta con la pandemia. Questa è la denuncia di alcuni diplomatici di Paesi Bassi, Danimarca, Austria, Belgio, Irlanda, Lituania e Ungheria. Dicono che la metodologia di Bruxelles è obsoleta. Per esempio la Polonia, che è quella che ha la recessione meno grave, ma dovrebbe essere la terza beneficiaria del recovery. Il Belgio, che invece ha il tasso di mortalità più alto pro capite, riceverebbe gli importi più bassi. In effetti, a me questa, sapete che non ho nessuna simpatia per i paesi citati, i frugali o gli avidi, però insomma, forse su questo una riflessione andrebbe fatta. In effetti la Polonia non ho ben capito, se non per un equilibrio interno, perché riceva così tanto. Ancora segnalo un'intervista del commissario al bilancio dell'Unione Europea Paolo Gentiloni alla Frankfurt Allgemeine Zeitung, in cui dice: il peggio alle spalle, ma l'insicurezza resta, alcuni settori non sono stati toccati dalla pandemia, altri come il turismo sono ben lontani dalla ripresa, il crollo economico è una diretta conseguenza del lockdown, ora lentamente l'economia si sta riprendendo, ma attenzione, se la Germania non cresce, l'economia europea non si riprenderà. E quindi Gentiloni ha ricordato, diciamo, ha accolto positivamente il piano tedesco da 130 miliardi che ha detto appunto aiuterà tutta l'Europa. Ripeto, noi, la Germania è il nostro primo mercato di sbocco, visto che parleremo di export, a partire soprattutto dalla meccanica e dalla componentistica auto. Purtroppo oggi il dato della produzione industriale tedesca ad aprile, però aprile era un mese in cui la Germania, pur con un lockdown più morbido del nostro, era ancora in lockdown, diciamo così, e è scesa del 18% rispetto al mese precedente. È il calo peggiore da quando in Germania misurano le serie storiche, e cioè dal 1991, quindi un crollo record. E il collasso della produzione, e il crollo della produzione arriva per il collasso della produzione auto in Germania, meno 74%. Nel frattempo il Ministero del Tesoro lancerà a luglio l'emissione del BTP Futura, dedicato ai risparmiatori, quindi retail, esclusivamente ai risparmiatori, non agli istituzionali, per finanziare l'emergenza della pandemia ma anche la ripresa del paese. Il lancio è previsto dal 6 al 10 luglio, con una scadenza tra gli 8 e i 10 anni, quindi più lunga rispetto al BTP Italia, e non è indicizzato, ma prevede un meccanismo di cedole crescenti nel tempo e un premio finale calcolato sul tasso di crescita annuale medio del PIL. E veniamo ai dati dell'Istat sul PIL italiano. Ora devo dire che, visto che la Banca d'Italia ha stimato un meno 9 fino a un meno 13 e la Bundesbank per la Germania ha stimato quest'anno un meno 7,1, io non dico che ci metterei la firma, ma quasi, se facessimo un meno 8%, perché vorrebbe dire fare un punto in meno di PIL della Germania, e un più 4,6% nel 2021, marcata contrazione del PIL nel 2020, caduta dell'8,3% della stima dell'Istat. Shock senza precedenti rispetto alle precedenti stime. Il PIL va a meno 9%, lo vedevamo infatti in crescita dello 0,7-0,5%. La cosa, a mio avviso, più così, meno bella, diciamo così, è la crescita attesa nel 2021. Perché è del 4,6%, e al di là della percentuale devo dire che tutte le stime, Banca d'Italia, Istat, vedono una ripresa nel 2021 che è pari alla metà del crollo del 2020, il che vuol dire, adesso non funziona così la statistica, però vuol dire che tu avrai bisogno, ammesso e non concesso, almeno di una crescita analoga nel 2022 per tornare ai livelli del 2019. La disoccupazione, sempre secondo l'Istat, sarà al 9,6%, ma come effetto degli inattivi, cioè cala la disoccupazione ma solo perché c'è meno gente, ci sarà meno gente che il lavoro lo cerca e quindi si definisce disoccupata quando non lo trova. E infatti l'Istat segnala come 500.000 di persone abbia già smesso di cercare il lavoro. Allora, mi continuate a scrivere del piano Colao, non ho altri elementi se non il rapporto finale verrà illustrato nei prossimi giorni. Il piano propone obiettivi generali e 6 ambiti fondamentali per il rilancio. Un ambito si chiama imprese e lavoro, un altro infrastrutture e ambiente, un altro turismo, un altro arte e cultura, un altro pubblica amministrazione, poi istruzione e poi ricerca e competenze, poi individui e famiglie. Per quello che riguarda invece la vicenda con l'Austria, secondo me è allucinante. Comunque, la vicenda austriaca ci sta creando grossissimi problemi, ha detto il ministro dei trasporti Paola De Micheli. Le imprese italiane rischiano di perdere competitività e non ce lo possiamo permettere. E l'Italia chiederà in sede europea di eliminare le limitazioni al traffico. E tra l'altro il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto Paolo Ugge segnala come da tempo il governo austriaco stia attuando iniziative per limitare la capacità concorrenziale del sistema economico italiano. Una volta la questione ambientale, ricorderete che già c'è stato il divieto ai mezzi pesanti per la questione ambientale, un'altra volta l'emergenza Covid, ma comunque, dice Ugge, c'è sempre un motivo per limitare il nostro traffico merci. E, tra l'altro, chiedono che metta in atto l'Italia punti di controllo per garantire la sicurezza stradale, verificando le condizioni degli automezzi, soprattutto austriaci, che entrano nel nostro paese dai valichi del Brennero e di Tarvisio. Io mi chiedo, ma non so se sia possibile, ma visto l'atteggiamento dell'Austria, ma vi sarà un modo anche per... ci sarà qualche impresa? Andiamo a vedere i dati di export dell'Austria sull'Italia e l'interscambio commerciale. Perché se l'Austria continua con questo atteggiamento, tu puoi anche mettere delle limitazioni alle merci, in qualche modo al trasporto delle merci austriache, perché non è possibile con quelli che... con Vienna che dice potremmo aprire a Bolzano e alle province con, e alle regioni con tassi bassi, non decidi tu a chi aprire, poi abbiamo già fatto la battuta, bene, apri allora Austria verso Molise, Austria verso Basilicata, Austria verso Calabria, Austria verso Umbria, non ho capito bene come tu faccia a non passare per Veneto, Emilia, Toscana, Marche, ma insomma quello sarà un problema austriaco a quel punto, non è che decidi tu con chi aprire. E quindi iniziamo anche a mettere delle misure con contro l'Austria, cioè se questo è l'atteggiamento austriaco, onestamente. Allora, gli stati generali, vedi che poi... Allora, degli stati generali parliamo dopo il meteo, stati generali dell'economia, dopo il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Ho fatto un sospiro perché oggi Vito Crimi, capo politico dei 5 Stelle, ospite Radio 24, 24 mattina con Simone Spezia e Maria Ratella, ha detto non dobbiamo fare le cose di fretta, gli stati generali vanno visti in due step. Volevo dire a Crimi, non vi preoccupate, se c'è una cosa che non temiamo in questo momento è che le cose vengano fatte di fretta. Dai, metti. Focus Economia. Dunque, nel frattempo siamo andati a verificare i dati dell'export con l'Austria. Allora, noi siamo il terzo paese, con l'anno scorso 10 miliardi e 200 milioni di beni italiani in Austria, ne abbiamo importati per 9 miliardi e mezzo, esportiamo soprattutto macchinari, prodotti metallurgici e alimentari. No, lo dico perché qua, insomma, non è che l'Austria può continuare a fare come cavolo gli crede, sulla base di dati che non si capisce perché apri con altri paesi, non con noi. Francia e Spagna non hanno mai avuto questi problemi, eppure insomma, voglio dire, poi Kurz è sempre che rompe qualcosa, prima i frugali, come chiamo io, avidi, adesso blocco, prima ancora, ma insomma, ma che? Siete ancora rosicà per la prima guerra mondiale? E dai, su. Abbiamo semplicemente riportato i confini naturali, quindi sulle Alpi. Allora, Crimi, il capo politico dei 5 Stelle, dice oggi, appunto, ospite Radio 24, sugli stati generali della cultura immagino due step, due passaggi, non bisogna fare le cose di fretta. Secondo me serve subito un incontro serrato che duri il tempo necessario di avere il quadro di quelle che sono le richieste, le istanze o le visioni di ciascuno per poter fare una sintesi. Ed è da lì che parte un percorso, poi ovviamente parte un percorso che può durare il tempo che deve durare. Io l'ho detto prima, non possiamo immaginare una cosa troppo di fretta, dobbiamo agire subito per mettere in chiaro almeno il percorso e quali sono le domande, ecco, mettiamo così, questi stati generali devono darci immediatamente quali sono le grandi questioni da affrontare per, su ogni tema. E da lì, su quelle questioni, decidiamo che strada percorrere. Ma una volta intrapresa quella strada, destra, sinistra, opposizioni, parti sociali, tutti la prendiamo insieme. Allora, per carità, è importante, l'abbiamo detto più volte, ascoltate chi lavora nei settori e chi li conosce veramente, quindi la politica deve saper ascoltare. Però, insomma, attenzione anche ai tempi, lo dico a Crimi, perché poi decidiamo assieme. Insomma, ci sono delle cose che... adesso ho visto la De Micheli dire bisogna partire, ripartiamo dall'alta velocità, lì c'è poco da ascoltare, ci sono 11 miliardi messi a disposizione, andate avanti con l'alta velocità, cioè, te lo dice anche mio figlio che serve l'alta velocità, faccio per dire. L'edilizia scolastica, andate avanti con un piano sull'edilizia scolastica e anche l'edilizia sanitaria, perché non vorrei che poi tutti si sedessero per dire: allora serve l'edilizia scolastica, bene, prendiamo nota, lo sappiamo già. Finiti i lavori bloccati, i lavori infrastrutturali, le bretelle di collegamento, andate avanti, quello lo sappiamo già, lasciate stare il ponte sullo stretto, che ogni volta che lo sento, diciamo, poi porta pure sfiga a parlare del ponte sullo stretto, quindi state tranquilli. E poi c'è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno, è il ponte sullo stretto in questo momento, dai. Portiamo l'alta velocità vera giù e vediamo. Allora, andiamo avanti su questo. Zingaretti sugli stati generali dell'economia, chiaramente non della cultura, chiedo Venia se ho commesso un errore. Ha detto: non c'è nessun contrasto con Conte, con i 5 Stelle alle volte in difficoltà, ma a questo momento con Conte serve una svolta, non vedo alternative a questa coalizione, va bene agli stati generali, ma non possiamo sbagliare. Noi diciamo bene, ma attenzione al rigore, ai tempi certi, sull'iniziativa che il presidente Conte ha annunciato e che prenderà il via nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Diciamo attenzione perché ora l'Europa giustamente chiede a noi rigore, programmazione, innovazione e un piano nazionale di ricostruzione serio e adeguato al grande paese che siamo. Poi, per carità, tutti abbiamo letto della sorpresa del ministro Gualtieri, che non era stato informato. Io, guardate, mantengo per così, per un profilo deontologico, un atteggiamento di attesa. Ho qualche timore, non vorrei che fosse solo melina o ammuina, come dicono a Napoli, chi sta a poppa va a prora, chi sta a prora va a poppa. Spero che siano gli ultimi comitati, ma soprattutto spero che non si attenda un documento finale di decine di pagine. Spero che alcune cose possano essere fatte partire nel frattempo. Siamo a giugno, ammesso e non concesso che il Recovery Fund parta come deve, parte da inizio gennaio. Dobbiamo utilizzare i soldi del MES, i 37 miliardi che sono a tasso bassissimo, ci fanno risparmiare 500 milioni equivalenti se dovessimo raccogliere questi soldi sul mercato. E bisogna dire come li utilizzi, perché anche i soldi del MES, quelli straordinari, quelli per il Covid, vanno utilizzati per le spese sanitarie dirette o indirette. Quindi, cioè, buttate giù il progetto, non solo la passerella, ecco. Non vorrei che fosse un modo per guadagnare altro tempo. Ecco, tra gli spunti, oggi ho visto delle dichiarazioni di Tridico che dice: entro il 12 giugno arriverà la cassa integrazione per tutte, pagheremo le 420.000 domande giacenti, però ha anche detto che stanno calando le richieste di cassa integrazione a meno 50%, e infatti non capisco poi la critica, perché lo stesso Tridico dice: è un segnale che il paese è ripartito, cioè la cassa integrazione richiesta è meno 50%. Poi però Tridico aggiunge: stiamo sovvenzionando con la CIGA anche aziende che potrebbero ripartire magari al 50% e grazie agli aiuti di Stato preferiscono non farlo per pigrizia, per opportunismo, magari sperando che passi la piena e il mercato riparta come prima. In alcuni settori ci sono anche imprenditori che non affrontano le difficoltà della riapertura, tanto c'è lo Stato che paga l'80% della busta paga. Allora, per carità, che qualche furbetto ci sia tra gli imprenditori non lo metto in dubbio, come c'è nei percettori del reddito di cittadinanza e via così. Però te dico, qui il problema è: pagate la cassa integrazione che non è ancora arrivata. Se lei è il primo a riconoscere che c'è un meno 50% di richiesta, vuol dire che le imprese appena possono ne escono dalla cassa integrazione. Io tutta sta voglia di restare chiusi con la cassa integrazione non la vedo in giro, vedo fatturati in calo che non permettono a un'azienda, che sia dei servizi, che sia un esercizio commerciale, che sia un'impresa manifatturiera, di avere gli stessi dipendenti di prima, e questo mi preoccupa molto, ma anche perché sanno benissimo le imprese che la cassa integrazione finisce, non è che possono sperare ad andare avanti così. Allora, cioè, qual è il ragionamento? Uno, se può, e torna ad avere domanda, volumi, fatturati, torna a lavorare come prima. Chi è che vuole stare con i dipendenti in cassa integrazione sapendo che finisce? Boh. Tridico, per favore, vada avanti pagando la cassa integrazione, visto che ci sono ancora, si segnalano molte decine di migliaia di italiani che non hanno percepito, e lei stesso ritiene che siano 420.000 le domande giacenti. È una sì, io parlo del nulla tutti i giorni, hai ragione. Mi scrive un ascoltatore: un suggerimento al tavolo, al grande comitato, diciamo, stati generali dell'economia, vorrei darlo invece su quello che è successo, se riesco a beccare l'agenzia, a un'infermiera, perché magari negli stati generali dell'economia, eccola qua, si può anche pensare a un aumento serio degli stipendi degli infermieri, dei medici, del personale, diciamo, ospedaliero, visto che poi ci lamentiamo che 9.000 medici sono andati nel frattempo all'estero. Allora, per esempio, si può prendere ad esempio che cosa è successo alla ASP di Ragusa. Allora, l'ospedale di riferimento dei posti letto Covid è l'ospedale maggiore di Modica. Sapete quanto hanno preso in più di aumento gli infermieri di indennità? L'indennità per ogni turno è passata da 4,13 euro a 5,16 euro, cioè 1 euro. Così ha deciso la direzione della ASP di Ragusa. Possiamo lasciarlo come spunto al comitato, agli stati generali dell'economia, che forse un euro in più di indennità per chi lavora in ospedale Covid non è il modo per attirare le eccellenze nella sanità italiana, o dobbiamo fare pure il tavolo sanità per scoprire sta roba? Ma che è il grande fratello? Tutti sti show. Così come dobbiamo fare un altro tavolo, o dobbiamo scoprire che c'è una resistenza nella scuola a tornare in classe? Una resistenza, ripeto, qualcuno mi ha detto lei ha attaccato troppo gli insegnanti. No, ho detto mille volte che ci sono decine di migliaia di insegnanti che si sono fatti un mazzo tanto, scusatemi il francesismo, per fare lezioni a distanza, didattica online in questi mesi. Ci sono insegnanti che hanno fatto molto poco, ma ci sono dei sindacati soprattutto che fanno resistenza continua sul ritorno. Allora, sciopero generale oggi è una cosa che urla vendetta, perché uno sciopero generale di una scuola che non ha mai aperto effettivamente urla vendetta. E poi c'è la coordinatrice regionale di FGU Gilda Campania, che insegna inglese, Antonietta Toraldo, che dice: guardi, con la Fornero si va in pensione a 67 anni, quindi la maggioranza degli insegnanti ha più di 55 anni, un'età molto a rischio per il Covid. E noi abbiamo paura. Lei, appunto, c'è stata una manifestazione unitaria dei sindacati a Napoli oggi durante lo sciopero. La paura nasce perché il protocollo del comitato tecnico scientifico non dà garanzie, non c'è la misurazione della temperatura nei test sierologici. Servono nuovi insegnanti per sdoppiare le classi, ma nuove assunzioni non ce ne saranno perché i concorsi si faranno in autunno. Per questo proponiamo di ripristinare tutti gli edifici scolastici che sono stati dismessi negli anni. Per carità, questa può essere una proposta. E lo so, oggi non avevo ancora parlato della scuola, però dico, va ben tutto, ma una cosa è inaccettabile: non è che adesso a rischio sono solo gli insegnanti perché hanno più di 55 anni, ma scusatemi, ma i camerieri, i baristi che hanno più di 55 anni lavorano lo stesso. Non è che improvvisamente gli infermieri lavorano lo stesso e mettono la mascherina e lavorano. Gli operai con più di 55 anni lavorano. Adesso non capisco perché dovrebbero essere più a rischio gli insegnanti sopra i 55 anni rispetto a tutte le altre categorie professionali sopra i 55 anni, con la mascherina e col distanziamento. Comunque, sentiamo Francesco Sinopoli, CGL Scuola, microfono della nostra Rosanna Magnano, così poi non dite che non diamo la parola ai sindacati. Noi avevamo chiesto da molto tempo che si avesse un confronto con Palazzo Chigi, siamo stati convocati la scorsa settimana e abbiamo capito che non sono state previste risorse aggiuntive per la ripartenza. Le priorità sono quelle di tornare a scuola in presenza, parlo in sicurezza per gli studenti e per il personale, si deve rispettare il distanziamento fisico, quindi c'è bisogno di ridurre il numero degli alunni per classe e aumentare gli organici. Abbiamo appreso che la soluzione sono i plexiglass, non ce lo saremmo immaginati, perché altrimenti forse potevano spiegarcelo anche prima. Obiettivi che noi dovremmo darci comunque per la scuola italiana. L'emergenza ci consegna dei nodi che conoscevamo, sarebbe il momento di scioglierli. No, ma guardate, sull'inadeguatezza del ministro Azzolina ho chiesto venerdì le dimissioni e non mi pento di averle chieste, perché un ministro ha anche l'obbligo, secondo me, di dire: guardate, non sono in grado, non sono capace, non ho combinato nulla, siamo ancora all'ipotesi plexiglass a inizio giugno, mi dimetto. Va bene, e lì sarebbe arrivato anche il nostro applauso, non plauso, applauso. Però voglio dire, mi scrivono molti, ma scusatemi, i nonni invece vanno bene, visto che i ragazzini che non possono andare a scuola stanno con i nonni, che di solito hanno più di 55 anni, io non so. A me sembra anche qui tutto un gioco delle parti. Tant'è che Italia Viva dice lo sciopero dovrebbero fare i genitori più che gli insegnanti. Devo dire che sono d'accordo. Poi Zaia oggi ha detto a scuola no plexiglass e box o altre cose del genere, rivedremo le linee guida. Ma tra l'altro non è neanche una linea guida, perché la Zolina ha detto si sta valutando, il gerundio che mi manda in bestia. Intanto in Trentino ha riaperto la prima scuola dell'infanzia in Valsugana, 9 bambini distanziati, sistemati in sale appositamente sanificate e attrezzate. Vorrei capire perché non si è potuto aprire la scuola in Basilicata, in Calabria, in Umbria, in tutte le regioni, in Molise, in cui i tassi erano bassissimi. Ma tanto ormai è una domanda che mi porterò non nella tomba ma lungo tutta l'estate, almeno quello sicuramente, una cosa da uscire pazzi. Però intanto andiamo alla vicenda che ha scosso anche la borsa, quindi la decisione del TAR della Lombardia che ha annullato l'accordo che coinvolgeva l'azienda di Assorin sui test sierologici con il Policlinico San Matteo, e quindi anche il conseguente contratto della società della Regione Lombardia con la società a valore 2 milioni per 500.000 pezzi forniti. Sì, giusto, qualcuno mi dice, e i cassieri, è vero, gli insegnanti che si lamentano che non possono andare a scuola perché hanno più di 55 anni, vanno a 58 anni a fare la spesa dove incontrano una cassiera che di anni ne ha 57, ma lei non è a rischio, vero, perché fa la cassiera, non vede nessuno, hai voglia di distanziamento sociale quando vai a pagare. Ma poi voglio dire, se un insegnante ritiene che sia troppo pericoloso tornare a scuola, si mette in aspettativa non pagata, non dico si dimetta, si mette in aspettativa non pagata. Sara Monaci del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, il Sole, il quotidiano Sole 24 Ore, e tu come firma, siete stati i primi a seguire la vicenda di Assorin. Sì. Ne avete molto scritto su questo. Oggi è arrivata la decisione del TAR, che contesta, diciamo, accoglie il ricorso dell'azienda concorrente Tecnogenetics e però, se ho ben capito, accusa anche la Regione Lombardia della contratto in affidamento diretto. Prego, Sara. Sì, è un po' questo il problema, perché dopo aver avuto molti dubbi che sono stati dichiarati apertamente dai vertici della Regione Lombardia a marzo sulla affidabilità dei test sierologici, poi hanno, diciamo, dato un affidamento diretto a un'unica società, la Diasorin, che non aveva ancora una certificazione e che veniva utilizzata nella sperimentazione dal Policlinico San Matteo di Pavia, che l'ha ritenuta la più affidabile. Mm-hmm. Questo è il nodo della questione, perché è stato quindi fatto sulla scia di questa ricerca ritenuta affidabile e la più evoluta, diciamo, nel settore dei test sierologici dal San Matteo. Hanno fatto un affidamento diretto, tu ricordavi appunto 500.000 pezzi per un valore di 2 milioni, e già in quel momento la Tecnogenetics ha fatto ricorso per violazione della concorrenza, facendo anche un esposto in procura, la procura sta indagando su questa vicenda, ricordiamolo. Poi sono affrettati a fare una gara, un po' forse per rattoppare la situazione, e ricordiamo ha vinto Roche la gara lombarda per i test sierologici, ma intanto avevano anche mandato sul mercato i test sierologici della Diasorin. In questo pasticcio, il TAR questa mattina ha messo un punto dicendo che le decisioni prese dal San Matteo di Pavia, quindi dalla regione Lombardia, hanno dato un illecito vantaggio alla Via Sorin, quindi violando le regole della concorrenza e del mercato, della contrattazione pubblica, e soprattutto appunto dando la possibilità di utilizzare alla Via Sorin una struttura pubblica con laboratori pubblici e ricerca pubblica, quindi denaro pubblico, a scapito di altre aziende, e quindi invieranno anche alla Corte dei Conti il fascicolo. Quindi diciamo, in questo pasticcio complessivo, come se già non bastasse il coronavirus e il problema anche del tamponamento in difficoltà, si è aggiunta anche questo. Questo? Sì, si è aggiunto anche questo problema. Ok, ti abbiamo perso un attimo. Sì. Allora, il titolo in borsa chiaramente è andato molto male, per cui ha perso il peggior titolo, no. STMicroelectronics meno 4,30, Nexi meno 4, Diasonic meno 3,86%. Vedo un'agenzia per adesso che riguarda un'altra vicenda, quella segnalata da Report nella trasmissione di stasera, c'erano varie anticipazioni. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla vicenda della fornitura di camici da parte della Dama SPA, società di cui la moglie del governatore lombardo Attilio Fontana detiene una quota, se non ricordo male, il 10%, e che è gestita dal cognato di Fontana. Adesso vedremo se quello porterà ad altro. Ma torniamo con la Via Sorin. Quindi, però, per farci capire, qui non, loro dicono, trasmettono gli atti alla Corte dei Conti come se vi fosse un danno, diciamo, ai soldi pubblici. Però, voglio dire, qui la contestazione qual è? Che non andava fatta una gara con appalto diretto, affidamento diretto. Non è una contestazione, diciamo, di avere malversato, male utilizzato i soldi pubblici, se ho ben capito. Entrambe le cose, perché tutto parte dal fatto che, avendo fatto un affidamento diretto e non una gara, è stata violata la regola della concorrenza, e già lo aveva detto durante il primo ricorso il TAR, quando non ha dato la sospensiva, per capirsi, non ha bloccato questo affidamento, ma ha detto: rimanderò ad una nuova sede con più giudici l'approfondimento sulla questione. Il TAR, sapete, ragiona così: prima sospende e poi entra nel merito. Se ci sono gravi contestazioni si può sospendere ancora prima di entrare nel merito. Quindi non aveva dato la sospensiva, i test testuali sono andati avanti, ma aveva già ravvisato il giudice monocratico e il fatto che era stata violata la regola della concorrenza, perché le istituzioni pubbliche non possono andare direttamente da un'azienda, ma devono fare un appalto, quindi dare la possibilità a più aziende di concorrere e dare l'aggiudicazione alla migliore offerente, perché tra l'altro appunto si parla di questo, no? Perché l'azienda che poi davvero si è aggiudicato l'appalto un mese e mezzo dopo, Roche, ha dato un prezzo migliore rispetto a quelli della Diasorin. Quindi c'è anche il tema questo, ma non solo, c'è anche il tema dell'utilizzo dei laboratori del San Matteo di Pavia, del Policlinico, perché la Diasorin è stata in realtà scelta da quella che loro considerano la punta di eccellenza in questo settore. Dicono di poter ospitare tutte le aziende, ma in particolare questa era sembrata la più affidabile. In questa attività di ricerca, le strutture pubbliche, i ricercatori sono stati messi a disposizione di una sola azienda. In questo senso si può ravvisare anche un utilizzo illegittimo a favore di una sola azienda per poter sviluppare, perché sono stati sviluppati lì i test sierologici di un'azienda privata che però avrà degli incassi privati certo. E ha utilizzato, infatti c'è un passaggio che dice: attenzione, beni pubblici usati per interessi privati oltre all'illegittimo vantaggio competitivo, perché ha potuto contare in modo esclusivo sull'apporto di mezzi, strutture, laboratori, professionalità e tecnologie messe a sua esclusiva disposizione dalla Fondazione San Matteo di Pavia. Grazie anche a Sara Monaci. Poi invece andiamo sulla app Immuni e sugli stati generali, il patto, scusatemi, per l'export a forza di stati generali, non capisco più niente nemmeno io. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Ai suoi tempi non era possibile. Ma oggi Darwin può andare in radio. Qui, su Radio 24, è iniziata una nuova trasmissione. Darwin, l'evoluzione della scienza. Dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Storie di scienza, di tecnologia e di innovazione. Dai robot che cucinano le lasagne alla realtà aumentata per la chirurgia. Dalla scoperta del primo dinosauro acquatico al riciclo dei pannolini. Darwin, tutto quello che si può raccontare sulla scienza. Tre puntate originali in podcast sul sito di Radio 24. Dal 29 giugno on air tutti i giorni alle 20:50. Con Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Ovviamente qui su Radio 24. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sono usciti i dati della Protezione Civile nel frattempo. Allora, come ogni giorno a quest'ora, i guariti sono 747 in più, un dato simile a quello di ieri, un po' più basso della settimana scorsa. I neopositivi sono 500, i positivi sono 532 in meno, meno 1,5%, e anche questo è un dato sostanzialmente in linea con quello dei giorni scorsi. E i contagi sono più 280, e anche questo è un dato un po' più alto di ieri, che erano 200, ma più basso della settimana scorsa in generale. E invece i dati, diciamo, clinici, perché i ricoverati sono 139 in meno, i ricoverati in terapia intensiva sono 4 in meno e i decessi sono 65 in più, un dato, devo dire, la settimana scorsa abbiamo oscillato tra 55 e gli 88, quindi siamo sempre lì, diciamo. Invece una buona notizia la voglio dare, perché ci segnalano gli ascoltatori che giovedì prossimo presso la residenza per anziani, sappiamo che cosa è successo nella residenza per anziani Golgi Redaelli a Milano, verranno donati dal Movimento Disabili, articolo 14, i primi tablet per gli ospiti disabili e anziani. Mi sembra comunque una piccola iniziativa, ma importante, che segnalo, visto che ci viene segnalata anche attraverso WhatsApp 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, appunto. Andiamo sulla app Immuni, perché è un tema anche in parte economico. Alcune aziende, alcuni imprenditori ci hanno scritto, ma l'app Immuni potrebbe essere utilizzata anche per dare un elemento in più di garanzia di sicurezza. Allora, Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia sono le prime regioni a testare quello che si chiama contact tracing. L'app è già scaricata da 2 milioni di persone. Voglio sapere dal nostro Enrico Pagliarini, che è un mostro di tecnologia e conduce anche la trasmissione di Radio 24 proprio dedicata all'IT. Buonasera Enrico. Ciao, buonasera a tutti. Come funziona Stapp? Ti faccio però io le domande, perché di tecnologia invece ci capisco meno di te. Allora, io scarico questa app. Sì, okay? Ammesso che tu possa scaricarla, perché non tutti i telefoni possono scaricarle, questo è un primo vincolo. E quindi quali telefoni non possono scaricarla? Beh, allora c'è una lista molto lunga, comunque questo dipende dai sistemi operativi di Apple e di Google e anche dalle marche, perché ci sono una serie di produttori cinesi che non permettono il download di questa app. Comunque uno va sull'App Store di Apple e sull'Android Store, se può scaricarla la scarica, se non può poco può fare, nel senso che molto probabilmente per alcune marche ci saranno degli aggiornamenti e magari fra una settimana o poco più si potrà scaricare, ma per molti telefoni non si potrà fare. Ecco, ma sono i telefoni più vecchi o proprio dipende dalla marca? No, no, no, no, diciamo che a parte questo caso di alcuni produttori giapponesi, cinesi... Ma chi è, Huawei? Huawei, perché Huawei sapete che c'ha una querela in ballo con l'amministrazione americana, quindi non può usare i Play Services, che sono dei servizi di Google, quindi quella è una cosa che è in fase di risoluzione. Per quanto riguarda invece i telefoni un po' più vecchi, quindi sia iPhone che tutti gli Android un po' più vecchi, quindi parliamo di telefoni che effettivamente possono avere 5, 6, 7 anni, quindi non nuovissimi, ecco, in quel caso non si può scaricare. Allora, adesso non voglio generalizzare, però visto quell'esperienza che ho io sociale, chi è più giovane ha telefoni un pochino più contemporanei, più anziani meno, quindi se sei anziano... Sì. E hai un telefono che magari ha 4-5 anni, meglio che tu non ti prenda il Covid. Mettiamola così. Però andiamo avanti, no? Perché adesso iniziano già a girarmi. Va bene, però andiamo avanti sull'app Immuni. Allora, ammesso che io abbia il telefono abbastanza moderno da... non esageriamo, ma cioè, diciamo che è un telefono tutto sommato non vecchissimo, ecco, mettiamola così. Va bene. Mi scarico l'app. Allora, primo tema, che cosa succede una volta che l'ho scaricata? Allora, l'app sostanzialmente fa una cosa... scambia codici alfanumerici anonimi e casuali, quindi che non possono essere messi in relazione con la identità delle persone, quindi non, nell'app non ci viene scritta nella nome e cognome, nella mail, nulla. Cioè il mio telefono ha un codice casuale, vuol dire che non è che può risalire a quello precedente, fatto alfanumerico. Esatto, ammettiamo che io e te... 1, 4, 2, 3, D, C, Esteban. Ok. Esatto. Ammettiamo che io e te abbiamo installato le applicazioni. Se noi stiamo vicini per un tempo che deve essere uguale o superiore ai 15 minuti e a meno di 2 metri, questo è identificato come contatto a rischio, potenzialmente a rischio, i nostri telefoni si scambiano i dati. E finché non succede nulla di particolare, i telefoni si sono scambiati i dati, fanno una lista di tutti i telefoni che incontrano. Che cosa succede invece nel momento in cui una delle... Se rimaniamo in questo esempio tra me e te, mettiamo che io risulto positivo, io posso decidere, perché c'è volontarietà anche in questo caso, posso decidere in accordo con l'ospedale, comunque col Servizio Sanitario Nazionale, di avvisare tutte le persone con cui io sono stato in contatto. Questo avviso viene sempre attraverso questi codici, quindi chi riceve l'avviso non può sapere... Aspetta un attimo, perché l'altro punto è che è su base volontaria, mentre io penso che vista l'emergenza nazionale, vista l'emergenza sanitaria, visto che già i grandi player carpiscono ogni informazione su di noi, lo dico perché ho letto cose, oddio, arriverà il Grande Fratello, amore, Grande Fratello c'è già, ogni volta che mi muovo e faccio qualcosa mi arriva un messaggio sul telefonino che dice, visto che hai mangiato lì, vorresti anche provare questo prodotto, ti consigliamo tutto un insieme di posti che potrebbero piacerti, vuol dire che forse i fatti miei te li stai già facendo, ma al di là di questo... Però puoi decidere di disattivare tutti i servizi di localizzazione, per quanto riguarda questo... Cosa che faccio regolarmente, ma detto questo, io l'avrei reso obbligatorio perché qui c'è un interesse nazionale superiore all'interesse dell'individuo. Questo è un dibattito che non è stato... Non è che il semaforo rosso è su base volontaria, qui c'è un semaforo rosso, comunque... È un dibattito da cui non si è usciti, perché se io risulto positivo al Covid, il Servizio Sanitario Nazionale ha l'obbligo di segnalarmi. Comunque, mettiamo che io volontariamente, perché sono un cittadino coscienzioso e dico bene, sono positivo al Covid, segnalate che sono positivo al Covid. Sì, in realtà sei proprio tu che lo fai, cioè sull'applicazione c'è la possibilità di segnalarlo, quel codice viene sbloccato in accordo con il servizio sanitario, perché sennò uno potrebbe anche mandare in giro avvisi falsi, no? Nel momento in cui tu risulti positivo puoi decidere di avvisare tutte le persone che hanno avuto rapporti a rischio, cioè contatti ravvicinati a rischio con te, esattamente. Quindi io sul telefonino, sullo smartphone riceverò una notifica. Tu sei quello positivo, non cambiamo i ruoli. Tu sei quello positivo e quindi a quel punto tu risulti positivo, decidi dal tuo telefono di segnalare questa cosa, giusto? E cosa fai? A tutte le persone, cioè non lo faccio io, diciamo, il sistema conosce, ha una lista di tutte le persone che sono state a contatto con me, io manderò questa notifica, sullo smartphone delle persone che sono state a contatto con me in modo ravvicinato arriverà una notifica. Allora in realtà non viene inviata una notifica perché non c'è nessuno che ha questa lista, c'è sempre questa famosa lista di codici anonimi e solo il mio telefonino riesce poi a fare il matching, quindi a fare un confronto tra codici e dire: ah, io questa persona, con questa persona sono stato vicino e quindi sul telefono appare questa notifica. Dopodiché qua si aprono una serie di questioni che ancora non hanno una soluzione, perché la domanda è: ma se io ricevo questa notifica, che cosa devo fare? Allora, secondo molti giuristi, io devo mettermi in quarantena, in isolamento, devo comunicare il fatto che io sono stato, ho avuto un contatto a rischio al servizio sanitario e quindi dovrei fare il tampone. E alcuni dicono: ma il tampone potresti non farlo subito. Secondo la sottosegretaria alla salute Zampa, intervistata da Radio 24 una settimana fa, non c'è un obbligo, ma una libera scelta del cittadino. Ricordiamo che praticamente tutto quello che succede sull'applicazione è su base volontaria, quindi secondo questa versione del Ministero, anche in questo caso c'è volontarietà, quindi io posso decidere o non decidere di seguire le indicazioni dell'applicazione. Anche in questo caso uno potrebbe dire: ma è un po' strano che tu... Allora, vediamo se ho ben capito. Sì. Tu a questo punto decidi di attivarla perché sei positivo. Mi arriva un messaggio che dice: una persona con cui che è risultata positiva, senza indicare che sei tu. Certo. È una persona con cui tu sei entrato in contatto, è risultata positiva, ti consigliamo di fare il tampone? Chiedo. Esattamente, sì. E poi basta, resta lì. Beh, a quel punto lì tu dovresti rivolgerti appunto al servizio sanitario, fare il tampone e poi eventualmente vedere se anche tu sei risultato positivo oppure no. E a tua volta potresti anche decidere di mandare un'allerta a tutte le persone con cui a tua volta sei stato in contatto. Perché lo scopo principale di questa applicazione è tentare nel modo più veloce possibile di interrompere le catene di contagio. Cosa che si fa manualmente con quello che tu citavi prima, il contact tracing, cioè il tracciamento dei contatti. Lo si fa già manualmente. Quando uno risulta positivo all'ospedale, gli si fa un'intervista e si dice: tu con chi sei entrato in contatto? E si risale alla catena di tutti i contatti. La soluzione dell'applicazione, che non è stata fatta solo in Italia, è stata fatta in 22 paesi del mondo sulla base dello schema proposto da Google e di Apple e da una serie di paesi di stati americani e anche alcuni paesi asiatici che hanno preso strade diverse, diciamo tecnologicamente diverse. Ecco, con l'applicazione tutto ciò dovrebbe essere molto più veloce. Allora, vabbè, insomma. Quali sono i tuoi dubbi? No, i dubbi sono che non servono a nulla, no? Perché questo. Allora, diciamo così. Cioè, che sia un po' fallace, non che non serva a nulla, è stato troppo critico. Allora, abbia delle maglie così larghe. Beh, sicuramente la volontarietà può creare effettivamente. Sì, va, su questo non c'è dubbio. Però è anche vero che è un esperimento, chiamiamolo sociale, socio-sanitario, che non è mai stato fatto nella storia. Vero, questo quindi... è vero. Allora, sì, alcuni mi stanno invece. Qualcuno dice che abbiamo confuso le già poche chiare idee, questo è molto grave per noi, no, questo lo dico seriamente. Altri dicono: ma come 2 metri e 15 minuti quando le disposizioni per noi sono massimo minimo un metro di distanza? Evidentemente per gli immuni bisogna stare 15 minuti a meno di 2 metri. Non mi chiedete però... Adesso, questa è una disposizione del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo della Malattia. Sì, il problema è che poi quando vado in giro, entro in un negozio, devo stare un metro minimo e con la mascherina possibilmente, quindi non capisco i 2 metri per 15 minuti. No, ma questo effettivamente è un dubbio legittimo ed è vero. L'applicazione dice una cosa e le norme normalmente dicono un metro. Allora, vabbè, meglio parlare di economia, che è quasi più semplice di quello che tu ci hai raccontato. grazie Enrico Pagliarino. Comunque io l'ho installata, quindi consiglio a tutti di installarla. Poi diciamo un'ultima cosa. Siamo ancora in fase sperimentale in queste 4 regioni. Io immagino, spero, auspico che molti dei dubbi che oggi ancora ci sono, non ultimo quello che abbiamo detto poco fa, cioè che cosa faccio nel momento in cui l'applicazione mi dice che sono entrato in contatto a rischio con una persona. Ecco, io immagino che in teoria dal 15 di giugno, quando dovrebbe essere estesa a livello nazionale, a molte delle domande sia data una risposta chiara, e che ancora non c'è. Ma è vero che deve esserci Bluetooth attivo da entrambi? Sì, certo. Si basa su questa tecnologia Bluetooth Low Energy, che consuma pochissima energia, cioè una versione del Bluetooth che consuma... Ma devo scaricarmi anche quello? No. Diciamo che praticamente tutti i telefoni che hanno Bluetooth hanno anche questa sottoversione, sottocategoria di Bluetooth che automaticamente si attiva con l'applicazione. Mm. Quindi, con un normalissimo Bluetooth, devi attivare Bluetooth. Allora... Sì. Vedo quanta molti messaggi, ragazzi. Questo è quello che è 2 metri perché il grado di precisione del GPS è quello. Non è vero. Cioè, il grado di precisione del Bluetooth. In realtà, questa tecnologia Bluetooth riesce a capire l'intensità del segnale Bluetooth. Quindi riesce a capire anche se tu sei a 1 metro. Se sei a 5 metri, poi dipende anche qui da molte cose. Cioè, se tu hai il telefono in tasca dietro e magari hai, è in un po' schermato il telefono, ecco, in quel caso ci potrebbero anche essere un po' di un'indicazione non precisissima. Ma anche se ce l'ho nella tasca dietro è schermato, dipende, se c'hai un sedere di pietra. Dipende dove ce l'hai, insomma, magari ce l'hai. Mancava solo questo, così andiamo direttamente alla zanzara. Grazie Enrico Pagliarini, cambiamo grazie tema. Grazie a voi, ciao. Grazie. Sì, altri mi fanno notare che comunque il problema è fare i tamponi. Questo sì, non so, ragazzi, non è che posso risolvere, non è lo sportello. È vero che la lentezza sul tampone fa sì che se io poi scopro che sono positivo o mi arriva un messaggio, guarda che sei stato vicino a uno positivo, vatti a fare il tampone, poi da lì auguri, a meno che i tamponi non si riescano a fare nelle prossime settimane. E se sono in coda in auto con macchine vicino, e che ne so, qualcuno mi dice almeno hai scoperto Bluetooth Barisoni, vabbè dai. Sì. Altri mi stanno dicendo che hanno appena scaricato l'Immuni sul dispositivo Huawei e quindi negano che Huawei non lo possa scaricare, vabbè. Professor Marco Fortis, che insegna economia industriale e commercio estero alla Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Edison, buonasera. Buonasera. Allora, professor Fortis, io non riesco a fare la rinvito domani perché vorrei ragionare del patto per l'export e faremo ascoltare anche alcune dichiarazioni del ministro degli esteri Di Maio, un patto per l'export ambizioso ma solido. Le faccio una domanda preliminare però, ho visto che c'è un patto, il governo mette a disposizione 1.400.000.000, un patto che si regge su 6 pilastri a partire dalla comunicazione, perché bisognerà fare un rebranding nazionale, un riposizionamento nazionale del Made in Italy, e poi la formazione, l'informazione, l'e-commerce, il sistema fieristico, la promozione integrata e la finanza agevolata. C'erano molti ministri, De Micheli ai trasporti, Gualtieri all'economia e finanze, politica agricola e Bellanova, Manfredi all'università e ricerca, Franceschini per turismo e attività culturali, la Pisano per la digitalizzazione, poi 20 associazioni del sistema imprenditoriale, tra cui Confindustria, più ICE, Gruppo CDP, SACE, Simes, Invitalia e Commissario Generale per l'Expo di Dubai. Allora, mi chiedo solo un commento preliminare, perché questo poi mi servirà anche per gli Stati Generali dell'Economia. Questi tavoli vanno bene anche se così allargati, e se sì, a quale condizione? Diciamo che questo più che altro è un tavolo allargato anche per presentare un insieme di iniziative e risorse per sostenere l'export, fatto certamente positivo perché il nostro sistema industriale è fortemente orientato all'export. È un sistema fatto di poche grandi imprese, quelle piccole, medie, medio-grandi esportatrici sono molto brave, ma certamente se sono aiutate un po', soprattutto le più piccole, attraverso i temporary export manager, ci sono delle risorse sotto questo profilo. Quelle più grandi sono aiutate attraverso un potenziamento del finanziamento di sostegno ai sistemi fieristici. Già negli ultimi anni c'è stata una forte attenzione a valorizzare soprattutto le fiere più importanti per settori. Beh, lì fu il ministro Calenda a dire: o vi mettete assieme, non ricordo molto bene, o basta con la concorrenza tra fiere italiane, mettetevi assieme quando vi occupate degli stessi settori, se no io non vi do i soldi pubblici, chiudo. È stata una svolta importante il fatto che si prosegue in questa direzione, oltre che nella lotta all'Italian Sounding e alla difesa diciamo, della nostra presenza sui mercati internazionali è certamente positivo. Anche sul piano della comunicazione certamente va fatto molto, perché le risorse ci sono e ci sono anche i materiali, ci sono materiali filmati, materiali statistici, vanno un attimo organizzati e va data una comunicazione anche sul piano internazionale, soprattutto in Europa, sul fatto che molti luoghi comuni sulla debolezza del sistema industriale italiano sono veramente solo dei luoghi comuni, superati dai fatti. Cioè, noi abbiamo soltanto le piccole e medie imprese italiane industriali esportano più di tutta l'industria della Spagna, quindi poi ci restano le grandi e le piccole, le micro, diciamo, quelle con meno di 10 addetti, che tutti pensano siano una palla al piede, fondamentalmente esportano solo 8 miliardi, non contano quasi nulla. Certo, se si aiutano a diventare più grandi anche quelle, è tutto un vantaggio. Sì, io dico sempre che non ci sono imprese piccole o grandi, ci sono imprese nane o di giusta dimensione, perché nana vuol dire che tu puoi avere anche 200 dipendenti ma essere troppo piccola per i tuoi competitors, piccola invece vuol dire che tu hai 20 dipendenti ma sei nella filiera del valore, fornisci, fai subfornitura per uno ben posizionato sui mercati e va benissimo con le tue dimensioni. Fortis, la riavremo domani, perché da qui vorrei partire, perché uno potrebbe anche obiettare, vabbè, ma ragazzi, il Made in Italy andava bene, certo che si potrebbe fare di più, basta che riaprono i mercati di consumo, e dall'altro invece capire, più che un rebranding, un miglior posizionamento, dove deve intervenire, perché lei faceva l'esempio degli stereotipi. Ne aggiungo anche altri. Se parliamo del turismo, visto che il Made in Italy è anche turismo e l'esperienza che poi il turismo dà al Made in Italy, secondo me una campagna importante dovrebbe essere nel far capire, per esempio, che il nostro sud è stato pochissimo toccato da questa epidemia, che ci sono casi molto diversi, non in negativo, non per non far venire i turisti in Lombardia, ma per portare i turisti anche nelle nostre regioni del sud pochissimo toccate dall'epidemia. Ne riparliamo domani, grazie anche a Marco Fortis. E appunto è veramente tutto per questa puntata. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.